Capitolo 56. Via un innamorato, avanti un altro. La mattina dopo trovò Mrs. Gibson in una disposizione d'animo molto più soddisfatta. Aveva scritto e spedito la sua lettera e la cosa successiva da fare era mantenere Cinzia in ciò che ella definiva una condizione di ragionevolezza, ovvero in altre parole tentare di blandirla fino a renderla docile. Ma era tutta fatica sprecata. Cinzia aveva già ricevuto una lettera da Mr. Henderson prima di scendere per colazione. Una dichiarazione d'amore, la proposta di matrimonio più chiara che potesse essere espressa a parole, insieme alla comunicazione che, poiché egli si sentiva incapace di attendere le lungaggini della posta, l'avrebbe seguita a Hollingford, arrivando alla stessa ora in cui lei vi era giunta il giorno prima. Cinzia non parlò a nessuno di quella missiva. Si presentò in ritardo nella stanza della colazione, dopo che Mr. e Mrs. Gibson avevano terminato le solite procedure del pasto. Ma la sua mancata puntualità fu totalmente giustificata dal fatto che lei aveva viaggiato tutta la notte precedente. Molly non era ancora abbastanza in forze per alzarsi così presto. Cinzia parlò appena e non toccò cibo. Mr. Gibson se ne andò per svolgere le sue attività quotidiane e Cinzia e la madre furono lasciate sole. «Mia cara», cominciò Mrs. Gibson, «non stai mangiando la tua colazione come dovresti. Temo che i nostri pasti ti appaiano molto banali e semplici come quelli di Hyde Park Street». «No», ribatte Cinzia, «non ho fame, tutto qua. Se fossimo ricchi come tuo zio, riterrei un dovere e anche un piacere allestire sempre una tavola elegante». Ma i mezzi limitati sono un triste impedimento per i desideri. Non credo che per quanto possa lavorare, Mr. Gibson sia in grado di guadagnare più di quanto ricavi in questo momento, mentre le prospettive della legge sono sconfinate. Lord Cancelliere, il titolo oltre al patrimonio. Cinzia era quasi troppo assorta nelle proprie riflessioni per rispondere, ma disse: «E centinaia di avvocati senza una causa. Considera anche l'altro lato, mamma». «Bene, ma ho notato che molti di costoro possiedono un patrimonio personale». «Forse. Mamma, mi aspetto che Mr. Henderson venga a farci visita questa mattina». «Oh, mia preziosa figliola, ma come lo sai, mia cara Cinzia? Devo farti le congratulazioni?» «No, immagino di dovertelo dire. Ho ricevuto una lettera da lui stamattina. Oggi arriverà qui con l'Empire». «Ma ti ha fatto una proposta?» «O comunque deve per forza avere questa intenzione». Cinzia giocherellò con il cucchiaino prima di rispondere. Poi alzò gli occhi come risvegliata da un sogno e colse l'eco della domanda della madre. «La proposta? Sì, mi immagino di sì». «E lo accetti? Di sì, Cinzia, e rendimi felice». «Non dirò sì per rendere felice nessuno altro oltre a me stessa. Il progetto russo ha grandi attrattive per me». «Questo bisogna confessarlo», lo disse per tormentare sua madre e diminuire l'esuberante entusiasmo di Mrs. Gibson. Infatti era assolutamente decisa. Ma la cosa non toccò a Mrs. Gibson, che vi ritrovò una sincerità anche inferiore a quella reale. L'idea di vivere in un paese straniero nuovo, tra gente straniera nuova, non era priva di fascino per Cinzia. «Tu hai sempre un bell'aspetto, cara, ma non pensi che faresti meglio indossare quella bella seta color lilla? Non cambierò una virgola di ciò che ho indosso ora. Cara, caparbia creatura, sai di essere sempre bellissima a qualunque cosa indossi». Così, dopo aver baciato la figlia, Mrs. Gibson lasciò la stanza, impegnata a pensare al pranzo che avrebbe subito impressionato Mr. Henderson con la raffinatezza della famiglia. Cinzia salì da Molly. Aveva voglia di dirle tutto su Mr. Henderson, ma trovò impossibile introdurre l'argomento con naturalezza. Così lasciò che il tempo rivelasse il futuro con tutta la gradualità possibile. Molly era affaticata a causa di una brutta notte e suo padre, che era volato a salutarla prima di uscire, le aveva ordinato di rimanere di sopra per la maggior parte della mattinata e di starsene tranquilla nella sua stanza fino a dopo il pasto. Così il tempo non ebbe l'opportunità di rivelarle ciò che aveva in serbo. Mrs. Gibson mandò le proprie scuse a Molly per non essere andata a farle compagnia come ogni mattina e disse a Cinzia di addurre il probabile arrivo di Mr. Henderson come ragione del suo essere trattenuta al piano di sotto. Ma Cinzia non fece niente del genere. Baciò Molly e sedette accanto a lei, stringendole la mano. Alla fine poi, balzando in piedi, le disse: «Adesso, piccolina, Sarai lasciata sola. Voglio che tu stia molto bene e molto allegra questo pomeriggio, quindi adesso riposa. E la lasciò. Andò nella propria stanza, chiuse a chiave la porta e cominciò a pensare. Nello stesso momento qualcuno stava pensando a lei e non era Mr. Anderson. Roger aveva saputo da Mr. Gibson che Cinzia era tornata a casa e stava per decidere di andare subito da lei per avere un unico, vigoroso tentativo di superare gli ostacoli, di qualunque natura fossero, e di questa natura egli non era completamente consapevole, che lei aveva costruito contro la continuazione del loro rapporto. Lasciò suo padre, lasciò tutti e si immerse nei boschi per restare solo, fino a che venne il momento di poter montare a cavallo e correre via per vagliare il suo destino. Fu molto attento a non interferire con le attività mattiniere, cosa che gli era stata proibita tanto tempo prima, ma l'attesa gli risultò molto difficile sapendo che lei era così vicina al momento così a portata di mano. Eppure cavalcò lentamente, costringendosi a stare tranquillo e portare pazienza una volta che si trovò veramente sulla strada che conduceva da lei. Mrs. Gibson è in casa? Miss Kirkpatrick? Chiese la domestica, Maria, che aprì la porta. Lei era confusa, ma lui non ci fece caso. Penso di sì, non sono sicura. Volete salire in salotto, signore? So che lì c'è Miss Gibson. Così Roger andò di sopra. Era un fascio di nervi per la prospettiva del colloquio con Cinzia. Fu un sollievo, una delusione. Egli non era sicuro trovare Molly da sola nella stanza. Molly, reclinata sul divano del bovindo che si affacciava sul giardino, vestita di morbida stoffa bianca, molto pallida a sua volta, con un mezzo fazzoletto di pizzo legato intorno alla testa per proteggerla da qualsiasi effetto dannoso potesse avere l'aria che entrava dalla finestra aperta. Il giovane era così preparato a parlare con Cinzia che quasi non sapeva che dire a una persona che non fosse lei. Temo che non stiate così bene, disse a Molly, che si mise seduta per riceverlo e che immediatamente iniziò a tremare per l'emozione. Sono solo un po' stanca, tutto qua, ribatté lei. E poi si tacitò del tutto, sperando che lui se ne andasse, eppure in qualche modo desiderando che rimanesse. Roger prese una sedia e l'avvicinò a lei di fronte alla finestra. Pensava che senz'altro Maria avesse comunicato a Miss Kirkpatrick che aveva una visita e che in qualsiasi momento avrebbe udito il suo rapido passo leggero sulle scale. Sapeva di dover parlare, ma non riusciva a farsi venire in mente niente da dire. Un colore rosato spuntò sulle guance di Molly. Un paio di volte fu lei sul punto di parlare, ma di nuovo ci ripensò e le pause tra le sue osservazioni deboli e sconnesse si fecero sempre più lunghe. All'improvviso, durante uno di questi intervalli, l'allegro brusio in lontananza di voci felici nel giardino si fece più vicino. Molly apparve sempre più a disagio e sempre più rossa, e suo malgrado continuò a fissare il volto di Roger. Lui riusciva a superarla con lo sguardo e a vedere il giardino. Repentino, un colore acceso gli coprì il viso, come se il suo cuore avesse pompato il sangue sprombattuto. Cinzia e Mr. Henderson erano ormai visibili. Egli le parlava con ardore, chinandosi per fissare il suo viso. Lei, distogliendo un po' gli occhi in un grazioso atto di timidezza, stava evidentemente civettando a proposito di alcuni fiori che non voleva porgere o che non voleva accettare. Proprio in quel momento, quando i due innamorati furono sbucati fuori dal boschetto di arbusti per tornare alla luce del sole, Maria fu vista avvicinarsi. Apparentemente ella ebbe la sensibilità femminile di indurre Cinzia ad allontanarsi dal presente ammiratore e fare qualche passo verso di lei, così da poterle sussurrare che era arrivato Mr. Roger Hamley, il quale desiderava parlarle. Roger poté vederla trasalire e voltarsi per dire qualcosa a Mr. Henderson prima di dirigersi verso la casa. Ora Roger parlò a Molly. Parlò frettolosamente, con voce rauca. Molly, ditemi, è troppo tardi perché io parli con Cinzia. Sono venuto per questo. Chi è quell'uomo? Mr. Henderson è arrivato solo oggi, ma adesso è il suo innamorato ufficiale. Oh, Roger, perdonatemi per questo dolore. Riferitele che sono stato qui e che sono andato via. Fate in modo che le sia comunicato. Non interrompetela. E Roger corse giù per le scale di corsa, dopodiché Molly udì lo sbattere violento della porta d'ingresso. Egli aveva appena lasciato la casa quando Cinzia entrò nella stanza, pallida e risoluta. Dov'è? Chiese, guardandosi intorno come se lui si fosse nascosto. È andato via. disse Molly molto debole. È andato via. Oh, che sollievo! Sembra che io sia condannata a non liberarmi mai di un vecchio innamorato prima di iniziare una relazione con quello nuovo. Eppure gli ho scritto il più chiaramente che potevo. Ehi, Molly, che succede? Molly, infatti, era svenuta. Cinzia corse verso il campanello, chiamò Maria, fece portare acqua, sali, vino, di tutto. E non appena Molly, ansante e sofferente, riprese conoscenza, Cinzia scrisse un messaggio a matita a Mr. Henderson pregandolo di tornare alla George, da dove era arrivato quella mattina, e dicendogli che se le avesse obbedito subito gli sarebbe stato concesso di tornare la sera, altrimenti lei non l'avrebbe voluto rivedere fino al giorno successivo. Incaricò Maria di recapitargli il biglietto e lo sfortunato giovane non credette che fosse l'improvvisa indisposizione di Miss Gibson ad averlo privato della compagnia della sua incantatrice. Si confortò nel corso di quel lungo pomeriggio di solitudine, scrivendo a tutti i suoi amici per comunicare loro la propria felicità, e tra loro c'era lo zio e la zia Kirkpatrick, che ricevettero la sua lettera contemporaneamente alla discreta missiva di Mrs. Gibson, che era stata compilata con somma attenzione in modo da rivelare quanto lei desiderava e niente di più. Era in uno stato proprio tremendo, chiese Cinzia sedendosi accanto a Molly nel silenzio del salutino privato di Mrs. Gibson. Oh, Cinzia, è stato talmente doloroso vederlo. Soffriva così tanto. Non mi piacciono le persone che provano sentimenti così intensi, ribatte Cinzia imbronciata. Non fanno per me. Perché non ha potuto lasciarmi andare senza tutto questo clamore? Non sono degna delle sue attenzioni. Tu hai il felice dono di fare in modo che la gente ti ami. Ricorda Mr. Preston. Nemmeno lui voleva abbandonare la speranza. No, ora non ti permetto di associare Roger Hamley e Mr. Preston nella stessa frase. Uno era troppo perfido per me e l'altro troppo buono. Ora spero che l'uomo che si trova in giardino sia il giusto compromesso. Anch'io lo sono, perché non credo di essere malvagia e so di non essere virtuosa. Ti piace davvero così tanto da sposarlo? Domandò Molly con serietà. Pensaci, Cinzia. Non sta bene continuare a rompere con i tuoi innamorati. Tu infliggi un dolore che sono sicura non intendi causare e che non riesci a capire. Forse no, non mi offendo. Non fingo mai di essere ciò che non sono e so di non essere costante. L'ho detto a Mr. Henderson. Si interruppe e arrossì sorridendo al ricordo. Gliel'hai detto? E cosa ha risposto? Che gli piaccio così come sono. Così, vedi, è stato doverosamente avvertito, solo che ha un po' paura, immagino, perché vuole sposarmi prestissimo, praticamente subito. Ma non so se acconsentirò. Tu non l'hai quasi visto, Molly. Però tornerà questa sera e bada, non ti perdonerò mai se non lo troverai molto affascinante. Gli volevo bene, credo, quando si propose tanti mesi fa, ma ho tentato di pensare che non fosse così. Solo che a volte ero così infelice, immaginavo di dovermi infilare una fascia di ferro intorno alla testa per evitare che si rompesse, come il fedele Giovanni di quel racconto tedesco. Ti ricordi, Molly? Di come il suo padrone conquistò la corona, il patrimonio e il suo amore, dopo innumerevoli prove e disgrazie, e mentre si stava allontanando su un tiro a sei dalla chiesa in cui si era sposato, con il fedele Giovanni che faceva da scorta. La coppia felice sentì tre forti schianti in successione e quando ne chiesero spiegazione si trattava delle fasce di ferro che il fedele Giovanni aveva portato intorno al cuore per evitare che si spezzasse per tutto il tempo delle tribolazioni del suo padrone. La sera arrivò Mr. Henderson. Molly era stata molto curiosa di incontrarlo e quando lo vide non seppe se le piaceva oppure no. Era avvenente, senza essere presuntuoso. Elegante senza che i suoi modi raffinati sembrassero ridicoli. Parlava con facilità e non diceva mai niente di sciocco. Era vestito perfettamente, ma senza lasciar vedere di aver prestato grande attenzione al proprio abbigliamento. Era di buon umore e gentile, e non privo di quella gaia disinvoltura nelle battute di spirito che si addiceva alla sua età e alla sua professione, e che la sua età e la sua professione tendono a descrivere come arguzia. Però, almeno durante questo primo colloquio, agli occhi di Molly gli mancava qualcosa e nel profondo del suo cuore ella lo trovò piuttosto ordinario. Naturalmente non disse nulla di questa Cinzia, che era evidentemente felicissima. Anche Mrs. Gibson era al settimo cielo, in estasi, e parlò raramente, ma con ciò che disse espresse i sentimenti più nobili con il linguaggio più raffinato. Mr. Gibson non rimase a lungo con loro, ma mentre era presente studiò palesemente l'inconsapevole Mr. Henderson con i suoi penetranti occhi scuri. Mr. Henderson si comportò esattamente come avrebbe fatto con chiunque. Fu rispettoso con Mr. Gibson, deferente con la signora, amichevole con Molly, devoto con Cinzia. La prima volta che, in seguito, Mr. Gibson trovò Molly da sola, iniziò a dire: «Bene, e come giudichi questa nuova futura parentela?» «È difficile, penso sia molto piacevole nei particolari, ma in generale è piuttosto insignificante». «Io ritengo che sia la perfezione», commentò Mr. Gibson con sorpresa di Molly. Un istante dopo, però, ella capì che il padre aveva parlato con ironia. Egli proseguì: «Non mi meraviglia che lei abbia preferito lui a Roger Hamley, con quei profumi e quei guanti, e poi i suoi capelli e la sua cravatta. Ora, papà, sei ingiusto. Lui è molto più di questo. Si può vedere che prova un forte sentimento ed è molto attraente e molto affezionato a lei. Anche Roger. Tuttavia devo confessare che sarò fin troppo felice di vederla sposata. È una ragazza che deve sempre avere per le mani una storia d'amore e sarà sempre pronta a scivolar via fra le dita di un uomo se quello non sta ben attento, come dicevo a Roger». «Dunque, l'hai visto dopo che è stato qui? L'ho incontrato per strada. Come stava? Non credo che abbia affrontato la situazione più gradevole del mondo, ma gli passerà presto. Ha parlato con intelligenza e rassegnazione e non ha detto molto in proposito, ma si vedeva che soffriva parecchio. Ricorda che ha avuto 3 mesi di tempo per pensarci. Lo Squire, mi pare, mostra un'indignazione più sentita. Il fatto che qualcuno abbia potuto respingere suo figlio lo fa fumare di rabbia. Finora non sembrava che l'enormità del peccato gli fosse così evidente. Adesso, però, vede quanto Roger ci sta male. In effetti, a parte me stesso, non conosco un solo padre ragionevole, eh, Molly?» Qualsiasi altra cosa Mr. Henderson potesse essere, di certo era un innamorato impaziente. Voleva sposare Cinzia immediatamente, la settimana successiva o quella dopo. In ogni caso, prima delle vacanze lunghe, così che potessero subito recarsi all'estero. Il corredo e le cerimonie preliminari, lui li gettava al vento. Una mattina o due dopo il fidanzamento, Mr. Gibson, generoso come al solito, prese Cinzia da parte e le infilò in mano una banconota da 200 sterline. «Ecco. Questo per pagare le spese del tuo viaggio in Russia e ritorno. Spero che troverai delle lieve ubbidienti». Con sua grande sorpresa e con un certo sgomento, Cinzia gli buttò le braccia al collo e lo baciò. «Voi siete la persona più gentile che conosco», gli disse, «e non trovo parole per ringraziarvi. Se mi rovini di nuovo il colletto in questo modo, farò pagare il lavaggio a te. E proprio adesso, poi, che sto tentando così risolutamente di essere ordinato ed elegante come il tuo Mr. Henderson». «Ma lui vi piace, vero?» chiese Cinzia implorante. «Voi gli piacete così tanto?» «Ma naturalmente. In questo momento siamo tutti angeli e tu sei un arcangelo. Spero che lo sopporterà bene come Roger». Cinzia prese un'aria seria. «Quella è stata proprio una follia», osservò. «Eravamo due persone così inadatte l'una all'altro. È finita ed è sufficiente. Inoltre, non ho più tempo da perdere ed ecco che il tuo elegante giovanotto si avvicina in tutta fretta. Mr. e Mrs. Kirkpatrick inviarono ogni sorta di congratulazioni e Mrs. Gibson, in una lettera personale, confermò a Mrs. Kirkpatrick che la sua intempestiva comunicazione confidenziale riguardo a Roger doveva essere considerata del tutto privata. Infatti, non appena Mr. Henderson aveva fatto la sua comparsa a Hollingford, Mrs. Gibson aveva scritto un'altra lettera con cui li pregava di non alludere minimamente a quanto lei aveva riferito nella prima, la quale disse era stata redatta in un momento di grande agitazione dovuta alla scoperta dello stato reale dei sentimenti della figlia, tanto che lei non sapeva quasi cosa avesse scritto, esagerando alcuni aspetti e interpretandone male degli altri. Tutto ciò che sapeva per certo ora era che Mr. Henderson aveva chiesto a Cinzia di sposarlo, che la sua offerta era stata accettata e che erano felici per quanto è lungo il giorno, e che, perdonate la vanità di una madre, erano proprio una splendida coppia. Così, Mr. e Mrs. Kirkpatrick risposero con una lettera altrettanto piacevole, in cui elogiavano Mr. Henderson, ammiravano Cinzia e in generale porgevano le loro congratulazioni. Insistevano inoltre che il corteo matrimoniale partisse dalla loro casa in Hyde Park Street e che i signori Gibson e Molly andassero tutti lì a far loro visita. Alla fine compariva un post-scriptum. Di certo non intendete il famoso viaggiatore Hamley, delle cui scoperte tutti i nostri scienziati sono così entusiasti. Parlate di lui come del giovane Hamley che è stato in Africa. Vi prego, rispondete a questa domanda perché Helen è molto curiosa di sapere. Questo post-scriptum era scritto con la grafia di Helen. Nell'esaltazione dovuta al successo generale e nel desiderio di compartecipazione, Mrs. Gibson lesse parti di questa lettera a Molly, post-scriptum compreso. Su Molly esso fece un'impressione anche più intensa del gentile invito per il soggiorno a Londra. Ci furono alcune riunioni di famiglia e alla fine si decise di accettare l'offerta dei Kirkpatrick. Esistevano molte piccole ragioni a sostegno di questa scelta, riconosciute apertamente, ma ce n'era una, generica, inespressa, per cui era preferibile che la cerimonia si svolgesse a una certa distanza dai due uomini che Cinzia aveva precedentemente respinto, che era la nuova parola da usarsi per descrivere il trattamento loro riservato. Così, a Molly, fu ordinato, ingiunto e chiesto insistentemente di tornare in forza al più presto, cosicché la sua salute non le impedisse di partecipare alle nozze. Mr. Gibson in persona, sebbene ritenesse il proprio dovere raffreddare le esaltate aspettative della moglie e di sua figlia, non era affatto contrario all'idea di recarsi a Londra, incontrare una mezza dozzina di vecchi amici e visitare molte esposizioni a carattere scientifico, per non dire della notevole simpatia che provava per il suo anfitrione. Mr. Kirkpatrick. Capitolo 57. Gli auguri per il matrimonio e l'addio. L'intera cittadina di Hollingford venne a congratularsi e a informarsi sui dettagli. Alcune persone, in effetti, e Mrs. Goodenough guidava la schiera degli scontenti, pensarono di venire defraudate del loro diritto a un bello spettacolo, con il fatto che Cinzia si sposava a Londra. Persino Lady Kemnor si mise in moto. Lei, che non era quasi mai andata a far visita a qualcuno che fosse estraneo alla sua cerchia, e che solo una volta era andata a trovare Claire nella sua casa. Lei passò a portare le sue congratulazioni alla sua maniera. Maria ebbe appena il tempo di correre di sopra in salotto una mattina e annunciare: «Chiedo scusa, signora, la grande carrozza del lettore si sta avvicinando al cancello e dentro c'è Milady la contessa». Erano solo le 11 e Mrs. Gibson si sarebbe indignata se una persona comune avesse osato presentarsi in un orario così inopportuno, ma nel caso della nobiltà le regole della moralità domestica erano più flessibili. La famiglia rimase sull'attenti, per così dire, finché Lady Kemnor apparve in salotto. Dopodiché la si dovette sistemare sulla sedia migliore e si dovette aggiustare la luce prima che iniziasse qualcosa di simile a una conversazione. Ella fu la prima a parlare e Lady Harriet, che aveva cominciato a rivolgere qualche parola a Molly, si azzittì. «Ho portato Mary, Lady Cuxhaven, alla stazione ferroviaria, su questa nuova linea tra Birmingham e Londra, e ho pensato di passare di qua e portarvi le mie congratulazioni. Claire, qual è la signorina?» Inforcando gli occhiali e scrutando Cinzia e Molly, che erano vestite in modo molto simile. «Non ritengo che sia fuori luogo darvi un piccolo consiglio, mia cara», continuò, quando Cinzia le fu accuratamente indicata come la promessa sposa. «Ho sentito parlare parecchio di voi e sono molto lieta per riguardo a vostra madre. Vostra madre è una donna molto onorevole e ha svolto i suoi doveri con ottimi risultati mentre era nella nostra famiglia. Dicevo, sono stata molto contenta di sapere che state per contrarre un matrimonio così stimabile. Spero che cancellerà i vostri passati errori di comportamento, i quali speriamo non erano in effetti che delle bazzecole, e che voi vivrete per essere di conforto a vostra madre, per la quale sia Lord Kemnor che io nutriamo un rispetto molto sincero. Però voi dovete comportarvi con discrezione in qualsiasi posizione al buon Dio piaccia di collocarli, che sia da sposata o da donna sola. Dovete portare rispetto a vostro marito e conformarvi alla sua opinione sotto ogni punto di vista. Consideratelo la vostra guida e non fate niente senza prima consultarli con lui». Era un bene che Lord Kemnor non fosse venuto, altrimenti avrebbe potuto paragonare la predica con la pratica. Tenete i conti in ordine e non ricordateli da dove venite. Mi pare di capire che mister, girandosi intorno in cerca di qualcuno che le suggerisse il nome che aveva dimenticato, Anderson, lavori in ambito legale. Benché esista un generale pregiudizio contro i procuratori legali, io ho saputo di due o tre che erano uomini molto rispettabili e di certo Mr. Anderson è uno di quelli, altrimenti vostra madre e il vostro vecchio amico Gibson non avrebbero approvato il fidanzamento. Mr. Anderson è un avvocato, discute le cause presso le corti di grado superiore, precisò Cinzia, incapace di trattenersi ulteriormente. Un avvocato? Ah, certo! Procuratore legale, avvocato. Capisco lo stesso, anche se non parlate così ad alta voce, mia cara. Cosa stavo dicendo prima che mi interrompeste? Quando sarete stata un po' in società, imparerete che ha considerato maleducato interrompere. Avevo molto da dirvi e voi mi avete fatto dimenticare tutto. C'è qualcos'altro che tuo padre voleva chiedessi? Cos'era Harriet? Immagino si tratti di Mr. Hamley. Oh, sì. Il mese prossimo abbiamo intenzione di riempire la casa di amici di Lord Hollingford e Lord Kemnor è particolarmente ansioso di assicurarsi la presenza di Mr. Hamley. Lo squire? Domandò Mrs. Gibson con un po' sorpresa. Lady Kemnor si inchinò leggermente come a dire «Se non mi interrompeste ve lo spiegherei». «Il celebre viaggiatore? Mr. Hamley lo scienziato, intendo». Immagino sia il figlio dello squire. Lord Hollingford lo conosce bene, ma quando lo invitammo tempo addietro rifiutò di venire e non addusse alcuna giustificazione. Davvero Roger era stato invitato alle torri e aveva rifiutato? Mrs. Gibson non riusciva a capire. Lady Kemmler proseguì. Ora, questa volta siamo particolarmente desiderosi che partecipi e mio figlio, Lord Hollingford, non ritornerà in Inghilterra proprio fino alla settimana prima di quando sarà da noi il duca di Esther Stone. Mi pare che Mr. Gibson sia molto in confidenza con Mr. Hamley. Pensate che potrebbe convincerlo a onorarci della sua compagnia? Questo fu quanto disse l'orgogliosa Lady Kemnor, e l'oggetto del discorso era Roger Hamley, che 2 anni prima Mrs. Gibson aveva niente meno che buttato fuori dal proprio salotto per essersi presentato in un orario inopportuno, e che Cinzia aveva buttato fuori dal proprio cuore. La donna era stupefatta e poté solo mormorare che era certa che Mr. Gibson avrebbe fatto tutto ciò che sua signoria desiderava. «Grazie, mi conoscete abbastanza bene da sapere che non sono la persona e le torri non è il tipo di casa che si è solita insistere per avere degli ospiti, ma in questo caso io chino il capo. L'alto rango dovrebbe sempre essere il primo a porgere i suoi rispetti a coloro che si sono distinti nel campo dell'arte o della scienza. Inoltre, mamma, interloquì Lady Harriet, papà diceva che gli Hamley occupano le loro terre da prima della conquista, mentre noi siamo giunti nella contea solo un secolo fa, e si narra che il primo Kemnor iniziò a far fortuna vendendo tabacco all'epoca di Re Giacomo. Se Lady Kemnor non cambiò propriamente il suo stile e non sniffò tabacco direttamente sul posto, si comportò in modo equivalente. Iniziò con Claire una conversazione a bassa voce, ciò non di meno con tono autoritario, in merito ai particolari delle nozze, la quale durò fino a che ella non ritenne che fosse arrivato il momento giusto per congedarsi. A quel punto strattonò Lady Harriet senza alcun preavviso e la trascinò via, nel bel mezzo della descrizione delle bellezze di spa che la figlia stava facendo a Cinzia. La città sarebbe stata per i novelli sposi uno dei luoghi di riposo durante il viaggio di nozze. Nonostante tutto, Lady Kemnor preparò un bel regalo per la sposa, una Bibbia e un libro delle preghiere rilegati in velluto con fibre d'argento e una collezione di registri per l'economia domestica, all'inizio dei quali ella aveva scritto di proprio pugno quale fosse l'opportuna fornitura settimanale a persona di pane, burro, uova, carne e genere di drogheria, e specificando i prezzi londinesi di ciascun articolo, cosicché la governante, anche più inesperta, potesse verificare se la propria spesa eccedeva le proprie possibilità. Come Lady Kemnor scrisse in un bigliettino allegato al bellissimo e noioso dono. «Se stai andando a Hollingford, Harriet, potresti importare questi libri a Miss Kirkpatrick», disse, dopo aver sigillato il biglietto con tutta l'accuratezza e la precisione che si addicevano a una contessa dalla personalità perfetta come la sua. «So che domani partono tutti per Londra per il matrimonio. Nonostante io abbia detto a Claire che ha un dovere sposarsi nella propria parrocchia. Al momento lei mi rispose di essere completamente d'accordo con me, ma che il marito nutriva un desiderio così forte di visitare Londra che lei non sapeva come opporsi, rimanendo ligio ai propri doveri di moglie. Io le raccomandai di ripetergli le mie ragioni per cui non era opportuno che le nozze avessero luogo in città, ma temo che lei abbia ceduto. Questo era il suo grande difetto quando stava qui con noi. Era sempre così accondiscendente e non era mai capace di dire di no. «Mamma!» esclamò Harriet con un lieve accenno di astuta blandizia nel tono. «Pensate che le sareste stata così affezionata se lei vi si fosse opposta e avesse risposto no quando voi desideravate che dicesse sì?» «Certo che sì, mia cara. Mi piace che tutti abbiano una propria opinione, solo che quando le mie opinioni sono basate sul pensiero e sull'esperienza, che in pochi hanno avuto uguale opportunità di acquisire, credo sia segno di dovuta deferenza da parte di un'altra persona lasciarsi convincere. In effetti ritengo che sia solo l'ostinazione a impedir loro di riconoscere quello che sono. Spero di non essere dispotica», concluse con una certa preoccupazione. «Se lo siete, cara mamma», replicò Lady Harriet, baciando molto affettuosamente il viso severo che la madre aveva alzato. «Preferisco il dispotismo alla Repubblica. E io devo essere molto dispotica con i miei pony, perché è già molto tardi per fare il giro per Ashhold». Ma quando arrivò dai Gibson, Lady Harriet fu trattenuta così a lungo a causa delle condizioni in cui la famiglia versava, che dovette rinunciare ad andare ad Ashhold. Molly sedeva in salotto pallida e tremante, e riusciva a stare in silenzio solo grazie a uno sforzo enorme. Era sola quando Lady Harriet fece il suo ingresso. La stanza era tutta in subbuglio, ingombra di carta, regali, scatole di cartone e fronzoli che spuntavano sulla metà. «Sembrate Mario seduto tra le rovine di cartaggine, mia cara. Cosa succede? Perché avete quel viso desolato? Il matrimonio non è stato annullato, vero? Anche se niente in cui fosse coinvolta la bella Cinzia potrebbe sorprendermi». «Oh no, da quel lato va tutto bene. Ho preso un raffreddore virale. Papà dice che ritiene sia meglio che io non vada al matrimonio». «Poverina! E sarebbe la vostra prima visita a Londra?» «Sì, ma ciò che mi importa di più è il non poter stare accanto a Cinzia fino all'ultimo». E poi papà si interruppe, perché non riusciva a continuare senza scoppiare in lacrime e non voleva piangere. Poi si schiarì la voce. «Papà», riprese, «aveva tante aspettative per questa vacanza. Visitare, andare, non posso dirvi dove, ma una lista di persone e di cose da vedere. E ora dice che non si sentirebbe tranquillo a lasciarmi tutta sola per più di 3 giorni, 2 di viaggio e 1 per il matrimonio». Proprio in quel momento entrò Mrs. Gibson, anche lei tutta agitata a modo suo, sebbene la presenza di Lady Harriet avesse un effetto meravigliosamente calmante. «Mia cara Lady Harriet, che gentile da parte vostra! Ah sì, vedo che questa povera figliuola sfortunata vi ha raccontato della sua disgrazia, proprio quando tutto stava andando così bene. Sono certa che è stata colpa della finestra aperta alle sue spalle. Molly, sai, continua a ripetere che non avrebbe causato alcun danno e ora vedi cos'è combinato. Di certo non potrò divertirmi e al matrimonio della mia unica figlia, per giunta, senza di te. Perché non posso pensare di lasciarti senza Maria. Mi sacrificherei io piuttosto che pensarti a casa abbandonata e triste». «Sono certa che a Molly dispiace più che a chiunque altro», osservò Lady Harriet. «No, non penso», obiettò Mrs. Gibson con felice indifferenza alla cronologia degli eventi. «Altrimenti l'altro giorno non si sarebbe seduta con le spalle rivolte a una finestra aperta quando io le avevo detto di non farlo. Ma ora non ci si può far niente, anche papà. Ma è mio dovere trarre il meglio da quel che ho e guardare al lato positivo della vita. Spero di potervi persuadere a fare altrettanto», rivolgendosi alla di Harriet. «Ma vedete, è una grande mortificazione per una ragazza della sua età perdere il suo primo viaggio a Londra». «Non è questo», cominciò Molly, ma la di Harriet le fece un piccolo cenno di stare in silenzio mentre parlava lei. «Ora, Claire, voi e io possiamo organizzare tutto, credo, se sarete disposta ad aiutarmi a realizzare un progetto che ho in mente. Mr. Gibson starà a Londra quanto potrà, e Molly sarà ben curata, e oltretutto godrà di un cambiamento d'aria e di atmosfera, il che, secondo la mia modesta opinione, è esattamente ciò di cui ha più bisogno. Non posso farla partecipare al matrimonio e mostrarle Londra, ma posso portarla con me alle torri e prendermi cura di lei personalmente, e ogni giorno spedirò un bollettino in città, così che Mr. Gibson starà tranquillo e rimarrà con voi quanto vorrà. Che ne dite, Claire? Oh, non posso, protestò Molly. Sarei solo di intralcio a tutti. Nessuno ha chiesto la vostra opinione, piccola. Se noi saggi anziani decidiamo che verrete, voi dovrete sottomettervi in silenzio. Nel frattempo, Mrs. Gibson stava soppesando velocemente i pro e i contro, ma questi ultimi era la gelosia a predominare. Tra i primi, la cosa suonava bene. Maria avrebbe così potuto accompagnare lei e Cinzia in qualità di cameriera personale. Mr. Gibson sarebbe potuto rimanere con lei più a lungo ed era sempre desiderabile avere un uomo ai propri ordini quando si facesse visita in un luogo come Londra. Inoltre, egli aveva una figura da gentiluomo, era attraente ed era molto simpatico al suo prospero cognato. E sì, ebbero la meglio. Che progetto meraviglioso! Non posso immaginare niente di più cortese o di più piacevole per questo povero tesoro. Solo, cosa dirà Lady Kemner? Sono modesta per la mia famiglia come per me stessa. Lei non... Sapete che il senso dell'ospitalità della mamma non è mai più gratificato di quando la casa è piena zeppa. E papà è proprio come lei. Oltretutto, vi è molto affezionata ed è riconoscente al nostro buon Mr. Gibson. E vorrà bene anche a voi, piccolina, quando vi conoscerà come vi conosco io. Al pensiero, Molly si sentì morire. A eccezione della sera delle nozze di suo padre, ella non aveva mai visto neanche l'esterno delle torri da quel disgraziato giorno della sua infanzia in cui si era addormentata nel letto di Claire. Provava terrore della contessa e detestava la sua casa, solo che quella sembrava una soluzione per gestire il problema che lei aveva creato e che per tutta la mattina aveva destato preoccupazioni in tutti, con una tale evidenza da procurare a lei stessa un forte disagio. Rimase in silenzio, benché le sue labbra tremassero di tanto in tanto. Oh, se le signorine Brownie non avessero scelto proprio quel periodo per trascorrere il loro soggiorno mensile da Miss Hornblower, se solo lei avesse potuto andare a stare da loro con il loro stile di vita pittoresco, tranquillo, primitivo, invece di dover ascoltare senza rimostranze come un inanimato oggetto di arredamento i progetti che venivano organizzati per lei. Starà nella stanza rosa sud, che come ricorderete è separata dalla mia solo da una porta. Trasformeremo lo spogliatoio in un delizioso salottino tutto per lei, in caso abbia voglia di star sola. Parker si prenderà cura di lei e sono certa che ormai Mr. Gibson conosce le sue doti da infermiera. Al piano di sotto ci sarà ogni sorta di persona simpatica che potrà far divertire Molly e quando questo raffreddore le sarà passato, io la porterò fuori tutti i giorni e come ho detto vi scriverò quotidianamente un bollettino sulle sue condizioni. Vi prego di riferire tutto questo a Mr. Gibson e di considerarlo deciso. Verrò a prenderla domani con la carrozza chiusa alle 11. E ora posso vedere l'adorabile promessa sposa e porgerle il regalo della mamma e i miei personali auguri? Così Cinzia entrò e ricevette pudicamente il regalo così appropriato e le ugualmente opportune congratulazioni senza manifestare grande gioia o riconoscenza né per l'uno né per le altre. Infatti era abbastanza perspicace da comprendere che né l'uno né le altre erano accompagnati da un impeto d'affetto. Ma quando sentì la madre ricapitolare rapidamente tutti i dettagli del piano che era stato preparato per Molly, gli occhi di Cinzia brillarono di pura gioia e quasi con sorpresa di Lady Harriet, la giovane la ringraziò come se quel favore fosse stato accordato a lei personalmente. Lady Harriet notò anche che molto tranquillamente Cinzia aveva preso la mano di Molly e aveva continuato a stringerla per tutto il tempo, come riluttante al pensiero della loro vicina separazione. In qualche modo lei e Lady Harry si avvicinarono l'una all'altra per questo piccolo gesto, più di quanto non fosse mai accaduto prima. Se Molly aveva sperato che suo padre sollevasse qualche obiezione al progetto, rimase delusa, ma non lo fu in realtà quando si accorse di come lui apparisse sgravato da una grossa preoccupazione, sapendo di affidare la figlia alle cure di Lady Harriet e di Parkers. E quando lo sentì dire che quel cambiamento d'aria ed ambiente era proprio ciò che egli aveva desiderato procurarle, aria di campagna senza di qualunque motivo d'agitazione, perché riteneva che l'unico altro luogo dove fosse possibile garantirle questi vantaggi e allo stesso tempo mandare Molly a trascorrere la sua convalescenza fosse Hamley Hall. Ma temeva che ciò che era accaduto lì fosse collegato all'inizio della malattia della figlia. Così il giorno dopo Molly fu portata via in pompa magna dalla propria casa, nel cui ingresso regnava una confusione di pile di scatole e bauli e di tutti gli altri sintomi dell'imminente partenza della famiglia per Londra per la celebrazione del matrimonio. Cinzia Aveva trascorso tutta la mattina insieme a Molly nella sua stanza, preoccupandosi della sistemazione dei suoi abiti, istruendola su cosa dovesse indossare e con cosa, e rallegrandosi dei bei fronzoli che, preparati per lei in qualità di damigella d'onore, dovevano ora servirle come abbellimenti per la sua visita alle torri. Sia Molly che Cinzia parlavano di vestiti come se quello fosse lo scopo principale della loro esistenza. Cinzia più che per Molly che per se stessa. Solo quando fu annunciata la carrozza e Molly si stava preparando a scendere, Cinzia le disse: «Non ti ringrazierò, Molly, né ti dirò quanto ti voglio bene». «No», disse Molly, «non posso sopportarlo». «Sappi solo che tu sarai la mia prima ospite e se indosserai dei nastri marroni e un abito verde ti caccerò fuori di casa». E così si lasciarono. Mr. Gibson era in ingresso per aiutare Molly a salire in carrozza. Aveva cavalcato a tutta velocità e ora le stava dando le ultime due o tre indicazioni in merito alla sua salute. «Pensaci, giovedì», le disse. «Parola mia, non so quale dei suoi tre innamorati lei chiamerà all'ultimo momento a ricoprire il ruolo dello sposo. Sono determinato a non stupirmi di nulla. E la darò con buona grazia a chiunque si presenti». Partirono e finché la casa non fu più in vista, Molly fu impegnata a restituire i baci sulla punta delle dita che la matrigna le mandava dalla finestra del salotto, mentre contemporaneamente il suo sguardo era fisso su un fazzoletto bianco che sventolava fuori dalla soffitta, lo stesso punto da cui lei, quasi 2 anni prima, aveva assistito alla partenza di Roger. Quanti cambiamenti aveva portato il tempo! Giunta alle torri, Molly fu condotta da Lady Harriet alla presenza di Lady Kemnor. Era quello un segno di rispetto nei confronti della signora della casa e la giovane sapeva che sua madre se lo aspettava, ma era ansiosa di sbrigare l'incombenza di portare Molly di sopra nella stanza che era stata così impegnata a preparare per lei. Lady Kemnor, tuttavia, fu molto gentile, se non addirittura amichevole. «Voi siete l'ospite di Lady Harriet, mia cara», disse, «e spero che si prenderà cura di voi. Se non sarà così, venite a lamentarvi di lei con me». Quella fu la frase più simile a una battuta che Lady Kemnor avesse mai pronunciato, e da essa Lady Harriet comprese che sua madre era soddisfatta dei modi e dell'aspetto di Molly. «Ora, eccovi nel vostro regno, e in questa stanza io non entrerò se non dietro vostra espressa autorizzazione. Ecco l'ultimo numero della Quarterly, l'ultimo nuovo romanzo e saggi appena usciti. Ora, mia cara, non c'è bisogno che torniate da basso per oggi, a meno che non me ne abbiate voglia. Parkes vi porterà qualsiasi cosa gradiate. Dovete tornare in forza al più presto, giacché ogni sorta di persone importanti e famose starà con noi domani e il giorno dopo, e penso che vi piacerà vederle. Supponiamo che oggi scendiate solo per il pranzo, e se vi va questa sera. La cena è un affare lungo e stancante, se non ci si sente bene, e non vi perderete granché perché al momento in casa c'è solo mio cugino Charles, che è la personificazione del silenzio intelligente». Molly era fin troppo lieta di consentire a Lady Harry di decidere ogni cosa per lei. Era iniziato a piovere, in generale la giornata era cupa per essere in agosto. Nel salottino predisposto per lei ardeva un piccolo fuoco di legno profumato. Dall'alto si dominava l'ampio e piacevole panorama del parco e da lì si poteva anche scorgere la cuspide della chiesa di Hollingford, che diede a Molly una gradevole sensazione di vicinanza a casa. Fu lasciata sola, stesa sul divano, con dei libri accanto, il fuoco che splendeva crepitando, crepitando, e le raffiche di vento che sbattevano la pioggia contro il vento, aumentando così per contrasto il senso di piacere nello stare chiusi in casa. Parker stava disfacendo i suoi bagagli. Lady Harriet aveva presentato a Parker a Molly dicendo: «Ora, Molly, questa è Mrs. Parkers, la sola persona di cui abbia paura. Mi sgrida se mi sporco con i miei colori, proprio come se fossi una bambina, e mi manda a letto quando voglio stare alzata». E intanto Parker sorrideva con espressione truce. «Perciò, per liberarmi della sua tirannia, le offro voi come vittima. Parker, scomandate Miss Gibson con un bastone di ferro, fatela mangiare, bere, riposare, dormire e vestitela come pare meglio e più saggio a voi». Parker aveva inaugurato il suo regno sistemando Molly sul sofà e dicendole: «Se volete darmi le vostre chiavi, Miss, disferò i vostri bagagli e vi farò sapere quando sarà ora che io venga ad acconciarvi i capelli per predisporvi per il pranzo». Infatti, se di tanto in tanto Lady Harriet usava dei colloquialismi, di sicuro non li aveva imparati da Parkers, che si vantava della correttezza del proprio linguaggio. Quando Molly scese per pranzo, trovò il cugino Charles in compagnia di sua zia Lady Kemnor. Egli era un certo Charles Morton, il figlio dell'unica sorella di Lady Kemnor. Un uomo di 35 anni circa, bruttino, dai capelli color sabbia, Era immensamente ricco, molto intelligente, goffo e riservato. Aveva nutrito un forte attaccamento durato molti anni per sua cugina, Lady Harriet, che non si curava minimamente di quel giovanotto, sebbene quello fosse il matrimonio che sua madre desiderava per lei. Lady Harriet aveva comunque un rapporto amichevole con lui, gli dava ordini, gli diceva cosa fare e cosa non fare, senza nutrire mai un solo dubbio sulla sua disponibilità. A proposito di Molly, gli aveva dato questo suggerimento. Ora Charles, la ragazza, ha bisogno di divertirsi e di interessarsi a qualcosa, senza doversi disturbare personalmente. È troppo fragile per impegnarsi mentalmente o fisicamente. Quando la casa si riempirà, badate a lei e accompagnatela dove possa sentire e vedere ogni cosa e tutti, senza responsabilità e senza cerimonie. Così, quel giorno, a pranzo, Charles iniziò a prendere Molly sotto la propria quieta protezione. Non disse molto, ma ciò che disse era davvero amichevole e piacevole, e Molly cominciò, come l'uomo e Lady Harriet aveva previsto, a confidare gradevolmente in lui. Poi, la sera, mentre il resto della famiglia era a cena, dopo che Molly aveva preso il tè e riposato tranquilla per un'oretta, Parkers venne a vestirla con uno degli abiti nuovi preparati per la visita dei Kirkpatrick e le sistemò i capelli in modo nuovo e grazioso, cosicché, quando Molly si guardò riflessa sul lungo specchio da terra, quasi non si rese conto che quella figura elegante fosse la sua. Lady Harriet l'accompagnò da basso, nel grande, lungo e formidabile salotto che sin da bambina aveva tormentato i suoi sogni, quale luogo di un'infinita camminata. Al lato opposto della stanza si trovava Lady Kemnor, intenta a ricamare il proprio arazzo. La luce del fuoco e delle candele sembravano concentrate tutte su un unico angolo luminoso, dove subito dopo Lady Harriet preparò il tè. Lord Kemnor si mise a pisolare e Sir Charles iniziò a leggere dei brani della Edinburgh Review alle tre signore impegnate nelle loro attività. Quando Molly andò a letto fu costretta ad ammettere che stare alle torri in qualità di ospite era più piacevole che altro e tentò di riconciliare le passate impressioni con le nuove, finché non si addormentò. Doveva passare un'altra giornata relativamente tranquilla prima che la sera giungessero gli ospiti attesi. Lady Harriet portò a Molly a fare un giro nel suo calessino tirato dal pony e per la prima volta in molte settimane Molly ricominciò a sentire il delizioso principio del ritorno della salute e la danza degli spiriti della giovinezza nell'aria fresca purificata dalla pioggia del giorno prima.